Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi puntata speciale della trasmissione nel corso della quale vi porteremo a New York. Avete capito bene, Giovani Talenti si è trasferita alcuni giorni fa nella Grande Mela per raccontarvi non una ma ben sei storie di nuova emigrazione professionale under 40. Emigrazione, è il caso di dirlo, tutta in salsa tricolore. Poco più di un anno fa mi sono laureata all'Università Sapienza di Roma in architettura nella facoltà di Valle Giulia e pochi mesi dopo mi sono trasferita a New York, dove ho cominciato a costruire quella che sarà la mia carriera, e ho fatto un internship per Eisenman Architects della durata di 3 mesi e dopo i quali mi hanno assunto. Daniela Tanzi, molisana, 27enne e di professione architetto, è una dei protagonisti della tavola rotonda tra giovani professionisti espatriati che abbiamo registrato alcuni giorni fa alla Stony Brook University di Long Island nel corso di una conferenza internazionale dedicata proprio alla fuga dei talenti italiani. Tra poco potrete ascoltare le loro voci e le loro storie. Ora spazio al notiziario. In apertura le ultime novità sul disegno di legge bipartisan contro esodo per favorire il ritorno in Italia dei professionisti under 40 emigrati. Sono circa 50 le proposte di modifica presentate in Commissione Finanze della Camera. Il provvedimento è stato calendarizzato in aula da lunedì 24 maggio. Per la deputata del PD Alessia Mosca, che ha presentato 20 emendamenti, la speranza di incassare il sì di Montecitorio è sostenuta dalla consapevolezza che le misure proposte sono a costo zero. L'obiettivo è ottenere a giugno un primo ok del Parlamento. Meno 41 giorni allo sbarco, un'iniziativa che il 25 giugno porterà 1000 espatriati italiani da Barcellona fino a Genova via nave. Il progetto ha ricevuto il sostegno anche dell'attrice Sabina Guzzanti. Per ora vi aderiscono gruppi di italiani residenti a Barcellona, Bruxelles, Parigi, Madrid e Atene. All'arrivo a Genova l'iniziativa si tradurrà in 5 piazze tematiche nel centro su cittadinanza, ambiente, pace, lavoro e scuola. Tutte le info su www.losbarco.org. In Italia il rilancio dei piccoli comuni passa attraverso l'impegno degli amministratori under 35 e quanto emerge dal rapporto Cittalia sui giovani amministratori. Uno su 5 nei comuni fino a 5.000 abitanti ha infatti, secondo la ricerca, meno di 35 anni. La presenza più forte di giovani è appannaggio del Piemonte, ultima l'Emilia-Romagna. I giovani sono sì la garanzia del nostro futuro, ma già oggi rivendicano legittimamente un ruolo di primo piano che non può e non deve essere loro negato. Così il ministro della gioventù Giorgia Meloni in un recente intervento. C'è posto in Italia per le nuove generazioni di talenti? Le nostre città in particolare possono diventare poli di attrazione? È questo il tema dell'incontro in programma lunedì a Roma a Forum PA 2010, che vedrà protagonista Irene Tinagli, docente di economia delle imprese all'Università Carlos III di Madrid. A lei abbiamo chiesto come l'Italia può attirare giovani talenti in ingresso, ma anche di rientro. Io credo che i meccanismi siano gli stessi. Se noi riusciamo a creare un paese che ai vari livelli, a livello nazionale, regionale e territoriale in generale, riesce a creare delle opportunità per queste persone, opportunità per imparare, per avere dei saperi all'altezza e non di avere sistemi educativi antiquati come i nostri, opportunità per lavorare e inserirsi nel mercato del lavoro in maniera trasparente, con delle opportunità vere di crescere, opportunità per vivere in maniera funzionale, non dover avere a che fare con burocrazie che rendono difficile vivere e lavorare. Questi tre fattori, imparare, vivere e lavorare, queste sono quelle le opportunità che i giovani cercano, stranieri e italiani. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Un economista senior esperto di tassazione all'OCSE di Parigi, richiesta la laurea in economia, scadenza per il CV 20 maggio, info su irecruit.oecd.org. L'Unione Europea è alla ricerca di amministratori nel settore della legislazione sulla concorrenza, richiesta la laurea in giurisprudenza, scadenza per il CV 28 maggio, info su europa.eu/epso. Un leader per l'iniziativa sul clima del WWF, richiesta laurea o esperienza nei settori dell'ambiente e della politica, lavorerà a Gland in Svizzera, scadenza per il CV 31 maggio, info su www.panda.org. E infine un ricercatore postdoc in biologia alla School of Physical Sciences dell'Università di Liverpool lavorerà sui nanomateriali, scadenza per il CV 28 maggio, info su liv.ac.uk. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Frank Sinatra, uno degli italiani più famosi d'America, per introdurre la puntata speciale di oggi di Giovani Talenti. Ci troviamo qui a Long Island, per la precisione nel Dipartimento di Italianistica della Stony Brook University, dove si è da poco conclusa una conferenza che ha un titolo che lascia poco spazio alle interpretazioni. La fuga dei cervelli italiana minaccia il futuro della nazione? Con noi alcuni dei giovani professionisti italiani espatriati che hanno preso parte alla tavola rotonda e che hanno accettato di intervenire a Radio 24. Andiamo subito a conoscerli. Nome: Arianna Maffei. Età: 37. Città di origine: Vigevano, in provincia di Pavia. Professione: neuroscienziato. Nome: Salvatore Mascia. Età: 32. Città di origine: Colle Sannita Benevento. Professione: postdoc. Nome: Daniela Tanzi. Età: 27. Città di origine: Agnone, in provincia di Isernia. Professione: architetto. Nome: Filippo Beretta. Età: 31. Città di origine: Monza. Professione: imprenditore. Nome: Cristina Cammarano. Età: 36. Città di origine: Milano. Professione: dottoranda e professore a contratto. Nome: Tommaso Boralevi. Età: 32 anni. Città di origine: Firenze. Professione: imprenditore. Iniziamo a raccontare un po' le vostre storie. Arianna: mi sono laureata all'Università di Pavia, ho fatto il dottorato all'Università di Pavia in neurobiologia e poi sono venuta negli Stati Uniti a fare un postdoc alla Brandeis University e adesso sono professore di neurobiologia alla Stony Brook University. Salvatore: ho conseguito una laurea in farmacia all'Università di Perugia, poi mi sono spostato a Londra per un anno dove ho completato la mia tesi e dopo mi sono spostato a Cambridge University per un PhD in ingegneria chimica ed ora mi trovo al Massachusetts Institute of Technology, dove sto effettuando un postdoc in ingegneria chimica per nuove tecnologie per produrre medicinali. Daniela: poco più di un anno fa mi sono laureata all'Università Sapienza di Roma in architettura nella facoltà di Valle Giulia e pochi mesi dopo mi sono trasferita a New York, dove ho cominciato a costruire quella che sarà la mia carriera e ho fatto un internship per Eisenman Architects della durata di 3 mesi e dopo i quali mi hanno assunto. Filippo: mi sono laureato in Bocconi a Milano, ho fatto impresa in Italia, poi ho lavorato in consulenza direzionale ancora in Italia, poi a un certo punto ho deciso di farmi un regalo e venire negli Stati Uniti per continuare gli studi di nuovo, ho fatto master a Massachusetts Institute of Technology, a seguito del quale ho iniziato la mia seconda impresa che ho venduto l'anno scorso e adesso sto lavorando sulla terza. Cristina: dopo la laurea in filosofia all'Università Cattolica ho deciso di dedicarmi all'insegnamento. Ho conseguito l'abilitazione con l'ASIS. Ho insegnato 5 anni filosofia e storia in un liceo privato a Milano e poi ho deciso di venire negli Stati Uniti per il dottorato. Tommaso: liceo classico a Firenze che ho adorato, poi laurea in ingegneria meccanica tra Firenze e Berlino. Da lì la professione in giro per il mondo, Dubai, Londra, fino ad arrivare a New York, dove ho deciso di iniziare a fare l'imprenditore. E ho creato prima un'azienda legata alla tecnologia e poi adesso mi sto occupando sulle energie alternative. Quindi un background molto variegato, abbiamo tante professioni, abbiamo tante storie, chi è venuto direttamente negli Stati Uniti e chi invece magari ha viaggiato per il mondo prima. Però molto rapidamente, avete delle esperienze fatte in Italia che volete raccontare? Arianna: prima di espatriare ho fatto per un anno il volontario in un laboratorio e poi ho fatto il mio dottorato e sono espatriata subito dopo perché alla fine del dottorato ho incontrato quello che sarebbe diventato mio marito negli Stati Uniti. Salvatore? Sì, certo, io ho lavorato 2 anni come farmacista, è stato un lavoro molto gratificante perché, come ben sapete, coinvolge aiutare persone che hanno bisogno, quindi è stata una fantastica esperienza prima di iniziare questa carriera. Daniela? Io durante la mia carriera universitaria ho studiato per un anno a Lisbona, poi sono tornata per concludere gli studi e un anno prima di laurearmi ho iniziato a lavorare per una compagnia, per una firma di architettura in Italia. Poco prima, per preparare la tesi, ho lasciato questa compagnia e poi tutto il resto. Filippo: io ho fatto impresa in Italia, poi lavorato in consulenza in Italia, credo questo mi sia stato molto d'aiuto per poi vedere veramente le differenze di un mondo diverso che si trova oltreoceano. Non apprezzerei così tanto l'America e quello che si può fare qui se non avessi avuto l'esperienza precedente. Cristina: dopo la laurea ho avuto una serie di lavori temporanei, provvisori e non particolarmente gratificanti, prima di iniziare a lavorare come supplente, che era più gratificante, però aveva tanti problemi per la durata del contratto, eccetera. E poi dopo la SIS invece ho avuto un tempo indeterminato nell'istruzione privata, che era da un certo punto di vista un'ottima occasione, ma dall'altro punto di vista non mi permetteva di mantenermi. Tommaso, io ho fatto una tesi di ricerca col gruppo Fiat e l'MIT e purtroppo quel contrasto è stato drammatico e quindi mi ha spinto all'estero. Poi ho fatto un piccolo periodo di lavoro nelle infrastrutture in Italia e anche lì il Ministero delle Infrastrutture a Roma non mi ha stimolato a rimanere. E veniamo un po' alla domanda clou adesso, e cioè perché avete lasciato l'Italia? Raccontiamo i motivi che vi hanno portato a espatriare, partendo da Arianna. Prevalentemente la curiosità di provare a lavorare in un laboratorio internazionale e secondariamente la ragione personale, il marito che lavorava già qua. Salvatore? Come Arianna avevo grande voglia di esplorare dei mondi diversi, quindi per avere esperienze nuove al di fuori di quello che è il sistema Italia, e poi dopo l'esperienza Erasmus mi ero reso conto che le opportunità che avevo nel campo della ricerca all'estero erano migliori di quelle che l'Italia mi offriva al momento. Daniela? Io non avevo delle prospettive molto esaltanti in Italia, parlo in particolare del mio campo, quello dell'architettura, ed è per questo che ho preferito iniziare tutto da qui. Filippo? Per la curiosità di andare ad esplorare cose nuove, credo di essere uno dei rappresentanti di questo popolo di esploratori che sono gli italiani, che hanno il desiderio di scoprire il mondo. Cristina? A casa a Milano stavo veramente bene, avevo il lavoro che volevo con un tempo indeterminato che per quelle della mia generazione è una specie di miraggio. Però una parte di me si sentiva non soddisfatta, sacrificata, sentiva di non avere le possibilità a cui avrei avuto diritto e quindi ho deciso di lasciare. Tommaso? Io cercavo il massimo per ogni campo in cui mi ero impegnato e purtroppo per le energie alternative, che era il settore in cui volevo lavorare, l'Italia non era il posto giusto. E poi una volta partito per l'estero e cambiando carriera non sono ancora riuscito a trovare un centro di eccellenza in Italia. L'impatto con gli Stati Uniti, diamo anche un po' la misura di cos'è la meritocrazia americana, se è migliore di quella italiana, quanto è possibile per un giovane fare carriera, avere un salario adeguato qui negli Stati Uniti, e anche il paragone con l'Italia, partendo da te, Arianna. È sicuramente più meritocratico, se uno lavora bene nel mio campo, pubblica articoli e fa buona ricerca, ha sicuramente possibilità di trovare lavoro, dopodiché il mercato della scienza è abbastanza complesso ovunque, però sicuramente non c'è bisogno di raccomandazione. Salvatore? Sono d'accordo e vorrei dire che secondo me l'esperienza che sto facendo qui ora negli US è molto simile a quella degli UK. Questi sono paesi che sono più meritocratici rispetto al sistema italiano. Daniela? Il mio impatto con gli Stati Uniti è stato forte e all'inizio non è stato neanche facile, ma qui ho scoperto giorno dopo giorno che con umiltà, se fai il tuo lavoro, vieni gratificato per quello che fai e che offri. Filippo? Io penso che gli Stati Uniti offrano risorse in quantità e qualità eccezionali, per cui quello che è fatto in Italia da 10 qui può dare 100 come risultati economici e come soddisfazione. Cristina? Il mondo della cultura premia il merito e lo premia credo dappertutto. Quello che io sentivo in Italia era che la struttura sociale più larga non era in realtà ben disposta a riconoscere con incentivi anche economici e di carriera il merito dei suoi giovani intellettuali. Credo che da quest'altra parte dell'oceano le cose siano un po' diverse. Tommaso? Io sono d'accordo con le idee del padre, aggiungo un paio di concetti attorno al tavolo. Il primo è il fatto che qua ti viene data fiducia a prescindere dall'età. E il secondo è l'abitudine e la capacità degli americani a prendere le decisioni. Come vedete l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambiereste e come? Arianna, partiamo con te. Quello che cambierei prevalentemente è la voglia di fare, lasciare la staticità fuori dalla vita personale e possibilmente da parte del governo investire più soldi nei giovani. Salvatore? L'Italia purtroppo dall'estero viene sempre vista come il bel paese, questo è uno stereotipo che secondo me dovrebbe cambiare, sai, la pasta, le macchine, la Ferrari, ma ci sono tanti talenti che si occupano insomma di varie altre attività. Noi stiamo cercando di dimostrarlo questo attraverso un'associazione, il PAB Professional Italian in Boston, che sta mostrando quanto di buono gli italiani possono fare all'estero. Daniela? Io amo l'Italia, amo il paese in cui ho studiato, la città in cui ho studiato. Il problema più grande secondo me è la fiducia, non viene data fiducia ai neolaureati e questo non può far altro che rallentare lo sviluppo secondo me. Filippo? Io aggiungo su quello che ha detto Daniela, penso che un problema dell'Italia sia la fiducia degli italiani in se stessi. Cosa si può cambiare? Tante cose operative, forse si potrebbe cambiare nel tempo la nostra classe dirigente. Cristina? Cosa cambiare? Non saprei bene, io direi dateci possibilità, lasciateci spazio. Tommaso. Io più che l'Italia, dall'estero vedo gli italiani e vedo delle persone di un talento sopra la media rispetto alle stakeholders dei miei progetti. E quindi quello che vorrei vedere più italiani che sono coinvolti in progetti di scala globale per poi riportare le esperienze in Italia. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Puntata speciale, quella odierna, insieme a sei giovani professionisti espatriati negli Stati Uniti che con noi hanno preso parte a una conferenza sulla fuga dei talenti svoltasi qui a Long Island nell'Università di Stony Brook. La fuga dei cervelli o talenti minaccia il futuro della nazione, questo è il titolo della conferenza. Riprendiamo allora la discussione con Arianna, Salvatore, Daniela, Filippo, Cristina e Tommaso. La prima domanda che vi faccio è: esiste secondo voi ancora il sogno americano, Arianna? Dipende da cosa intendi. Se intendi la capacità di spostarsi in un altro paese e costruirsi una carriera, chiaramente siamo tutti esempio di questo. Sì, esiste. Salvatore. Ma guarda, è difficile parlare di sogni. Comunque penso, come detto prima, che l'America sicuramente, come anche alcune altre nazioni, ti permettono di ampliare il tuo curriculum base per quello che stai cercando, grazie alle opportunità che ti offre. Daniela? Posso essere sincera? Io non ho mai avuto il sogno americano, soltanto una serie di circostanze, dalla vita privata a quella professionale, mi hanno portato qui, e il fato ha poi voluto che mi innamorassi della città in cui adesso vivo, che è a New York. Filippo. Io penso che esista ancora il sogno americano, inteso come la possibilità di costruire cose grandi per chi lo desidera perseguire. Forse non è più soltanto americano, non è più inizialmente americano. Vi sono altri paesi, penso alla Cina o a paesi dell'est asiatico, che hanno sviluppato questo stesso sogno, forse in misura più grande che non gli Stati Uniti oggi. Cristina. Sì, secondo me esiste. Questo paese dà possibilità a chi merita e a chi combatte per le proprie aspirazioni. Tommaso. Sono certo che esista, non è semplice realizzarlo, ma il problema è che secondo me mancano i sognatori. Quindi, diciamo, il problema è sognate di più e poi venite in America a realizzarlo. E andiamo ora a toccare un tema un po' controverso, comunque è il tema poi di questa nostra trasmissione, e chiedo a voi un parere su questo. E cioè, secondo voi esiste un problema di fuga, di uscita dall'Italia di talenti, di giovani talenti soprattutto, e come eventualmente anche risolverlo? Arianna. Penso che esista un problema di circolazione dei talenti, nel senso che i talenti che escono dall'Italia non necessariamente sono in fuga. Tuttavia, mancano le risorse per attrarre talenti da altri paesi e compensare per quelli che sono usciti. Salvatore? Ma guarda, io non so se dovrei definirlo un problema questo. Secondo me il fatto che giovani talenti vadano all'estero per ampliare le proprie esperienze è un fatto positivo. L'Italia dovrebbe impegnarsi per far sì che questi talenti possano ritornare e poi contribuire al bene del paese. Daniela. Io sono assolutamente d'accordo con Arianna, perché sono convinta che molti di noi siano costretti ad uscire dall'Italia per il semplice fatto che non ci sono abbastanza infrastrutture, non ci sono abbastanza laboratori, e per la semplice volontà di imparare di più siamo costretti ad andare via. Filippo. Io non penso sia un problema di fuga, nessuno di noi penso è scappato da qualcosa che assolutamente non voleva più vedere, penso sia un problema di mobilità di idee, di mobilità di capitali, di mobilità di tecnologie. Quindi cosa si può fare per migliorare la situazione dell'Italia è rimuovere alcune delle barriere, che siano regolamentari, che siano di visti, che siano di dogane, che siano di quello che vogliamo, per accelerare la mobilità attraverso tutto il mondo, compresa l'Italia. Cristina? Io mi trovo d'accordo con i miei colleghi. Penso di essere diventata più un talento dopo essermi trasferita qui. Cioè, quello che voglio dire è che credo che il movimento contribuisca alla qualità del mio pensiero, e quindi penso che l'Italia entrata in Europa in genere, anche una disposizione verso, non so, questa comunità cosmopolita, non faccia che incoraggiare un migliore qualità di pensiero. Cosa cambiare in Italia perché noi rientriamo? Forse questa è una domanda troppo difficile per un solo talento. Tommaso? Secondo me non è un problema di fuga, ma di quanto risplende il talento, e quindi andare all'estero è più semplice emergere a parità di condizioni. Quindi il problema secondo me è cosa fare per dare luce ai talenti che sono in Italia e hanno voglia di emergere. E per chiudere, un'altra domanda di rito che facciamo sempre anche per dare dei consigli ai giovani che in Italia stanno cercando di affermarsi, lo chiediamo a voi che siete anche espatriati per poterlo fare, cioè quale consiglio dareste a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita anche a un espatrio? Arianna. chiarirsi le idee su quello che si vuole fare e prendere la decisione che porta a realizzare il proprio sogno nella maniera migliore. Se questo significa uscire dall'Italia, si esca dall'Italia. Se questo significa sviluppare nuove idee all'interno del paese, si faccia all'interno del paese, ma andare con forza. Salvatore? Sì, il consiglio che posso dare ai miei coetanei e comunque a coloro che si trovano in difficoltà adesso in Italia per trovare una posizione di lavoro è che non mollare mai, essere persistenti, perché i sogni si possono realizzare e che anche andare all'estero a volte non è la soluzione migliore, ma sicuramente si può trovare una soluzione in questo. Daniela? Non dimenticare mai di credere in se stessi, perché l'autostima a giuste dosi è una grande qualità che va controllata, e quindi avere il coraggio di affrontare anche piccole decisioni. Filippo? Ma io penso l'unico consiglio che posso dare è quello di avere coraggio e curiosità di vedere, di fare. Insomma, il problema della vita non è che lì si sopravvive, è impossibile, non è che non ci si consumi, ma è perché cosa ci si consuma, che sia una cosa grande, più grande possibile. Cristina? Io ho due consigli: il primo, imparare un'altra lingua e impararla bene, e il secondo è non aver paura. Tommaso. Io do un consiglio di guardarsi dentro, cercare esattamente quali sono i propri sogni a prescindere da situazioni esterne, e poi collegarsi a internet, trovare un peer in giro per il mondo, creare un link e costruire il proprio ponte verso il proprio futuro da soli. Grazie a tutti e in bocca al lupo per il vostro futuro. Grazie. Grazie. Grazie. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi parliamo del social network Giovani Italiani, un network sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri. Stefano Caliciuri, il consulente che ha avviato giovaniitaliani.it. Giovaniitaliani.it nasce da una precisa richiesta dei giovani italiani del mondo che si sono riuniti a Roma nel dicembre del 2008. Cos'è giovaniitaliani.it? Giovaniitaliani.it è un social network che intende da una parte catalizzare e far dialogare tutti i ragazzi di passaporto italiano, ma anche di origine di famiglia italiana residenti all'estero, e dall'altra parte far sì che essi possano scambiarsi informazioni, dialogare, ospitarsi e darsi delle opportunità di lavoro, di scuola, eccetera eccetera. Mettono in rete, cioè, tutto quello che riguarda il mondo dei giovani italiani residenti appunto all'estero. Attualmente quanti iscritti conta? Adesso siamo circa 800. La cosa interessante è che, come si può vedere nell'home page del sito, è che rispecchiano proporzionalmente proprio il numero dei residenti italiani nel mondo, quindi ce ne abbiamo tantissimi dal Sud America, un po' meno in percentuale dal Nord America e così via, fino all'Africa, che al momento conta 3 iscritti. Cosa si può fare attraverso questo social network? Ecco, un giovane professionista espatriato che vuole entrare, vuole utilizzare questo strumento, cosa può fare? Tutto quello che vuole, nel senso, può da una parte ricevere informazioni sulla comunità italiana nel paese di sua residenza, quindi attraverso uno specifico motore di ricerca può selezionare e scegliersi appunto il criterio di ricerca. Ti faccio un esempio concreto che è sempre meglio. Io sono un avvocato residente in Argentina, voglio sapere quanti avvocati italiani ci sono residenti nella mia città, e basta che clicco e digito la parola avvocato e mi compaiono automaticamente tutti i miei colleghi che sono residenti nella mia città. Si può anche inserire dati, informazioni. Abbiamo una suddivisione per canali tematici, che possono essere scambi di informazioni per Erasmus, piuttosto che scambi di informazioni per documenti necessari all'attività professionale o all'apertura di un esercizio commerciale. Una vera e propria piattaforma di do e ricevo. Io metto informazioni e attingo da quello che i miei connazionali residenti in tutto il mondo poi inseriscono a loro volta. Tralasciando per un attimo i giovani di origine italiana, diciamo i figli di immigrati, e concentrandoci su quelli che invece stanno espatriando, che tipo di profili raccogliete in questo database? Quello che stiamo verificando è che la maggior parte dei giovani italiani che in questi momenti espatriano sono giovani laureati. Loro si definiscono ricercatori, ma anche giovani ancora studenti attraverso le forme di scambio come può essere l'Erasmus. Sostanzialmente sì, è un'immigrazione diciamo di eccellenza, quella che sta coinvolgendo l'Italia in questi anni, a differenza, mi viene da pensare, dagli inizi anni del Novecento o alla fine dell'Ottocento. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.giovaniitaliani.it. Prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: l'Italia è un paese conservatore, interamente proteso verso il passato e per questo incapace di offrire un futuro ai suoi giovani di talento, lasciandoli di fronte alla scelta tra l'accontentarsi o l'andarsene? Queste le vostre risposte. Sergio: l'Italia è un paese che crede di essere progressista, invece è profondamente conservatore, arcaico e ingiusto. Ci si ritrova a 40 anni con un pugno di mosche in mano e tante difficoltà. Bisogna andarsene e pagarne tutte le conseguenze o rimanere e fare altrettanto. Così Sergio. Diego: l'Italia è semplicemente un paese corporativo. L'importante è non andare a inficiare le false qualità delle corporazioni. Alla fine non importa se sei vecchio o giovane, l'importante è che tu sia disposto a collocarti in un ambito, agendo solo ed esclusivamente nell'interesse dei membri di quello specifico ambito, dice Diego. E badate bene, dei membri, perché qualunque ragionevole azienda, partito o ministero agirebbe nell'interesse dell'entità generale e non solo ed esclusivamente dei suoi membri. Il nuovo, più che il giovane, il destabilizzante, anche se positivo, in Italia non è semplicemente considerato. Non è una questione anagrafica e nemmeno di talento. Peggio, è una questione di posizione. Così, Diego. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione che prende spunto dalla puntata monotematica di oggi sugli Stati Uniti. Quanto è ancora suggestivo il sogno americano dell'emigrazione oltreoceano? Vi trasferireste negli Stati Uniti? Se sì, perché? E per chi di voi vi è emigrato, è un'esperienza che raccomandereste a dei giovani professionisti di talento che pensano di espatriare? Per contattarci potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanceremo settimanalmente la discussione. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto allora i vostri contributi online. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.